Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Eccoci qua, sono le 21 e 2 minuti primi, siete all'interno di Blu Radio Veneto, la vostra radio preferita, si può dire così, no? E questo è il programma della sera, Blu Time, in questa serata Blu Time Live, un po' in perfetto se vogliamo dire, perché i protagonisti della serata saranno in collegamento telefonico causa impegni sopravvenuti, e quindi più tardi avremo modo di sentire due personaggi, quindi divisi nelle due ore che, in cui noi vi terremo compagnia, quindi dalle 21 alle 22, dalle 22 alle 23. Allora io mi presento, io sono Flavio Bilato, assieme a me c'è Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sì, stasera andiamo avanti fino alle 23 perché il buon nostro direttore artistico sta sentendo gli echi di Paul McCartney. Quindi salutiamo anche Alberto Prisco, siamo un po' invidiosi che lui sia lì e noi siamo qua, però insomma valeva proprio la pena Paul McCartney, visto che potrebbe essere anche l'ultimo concerto qui in Italia, per cui valeva proprio la pena andarlo a vedere. Allora in questa serata appunto divisa due, perché come primo ospite avremo un graditissimo ritorno, e chi non se lo ricorda quando un po' di tempo fa cantava, forse prendendo in giro gli abitanti del nord Italia, lui dal sud, dall'Irpinia, cantava una gita sul Po, Po Po Po Po, no? E quindi non so se vi ricordate questo ritornello. Lui è Gerardo Carmine Gargiulo e ci presenta un nuovo lavoro denso tra sociale, politica, amore, emozioni varie, il tutto all'interno di quello che è il suo nuovo lavoro molto, molto divertente, sì. Che si intitola Miti e Tabù. Poi un po' di ironia che non guasta mai. Assolutamente sì, un po' di ironia, e lo sappiamo, chi si ricorda appunto Gerardo Carmine Gargiulo sa che appunto era pieno di ironia, e poi lo ricorderemo anche per aver scritto tutte le cose molto interessanti per gente di un certo livello, tipo Ornella Vanoni, ma ne parliamo più tardi assieme a lui, assolutamente. E quindi vi invitiamo a stare in ascolto appunto sulle nostre frequenze, e c'è anche la possibilità di intervenire all'interno della nostra pagina Facebook, che è Blu Radio Veneto Rock Wave, oppure sì, tramite lo streaming audio è possibile ascoltare la nostra trasmissione collegandosi al sito www.bluradioveneto.it e cliccando all'interno della notizia riservata appunto a Gerardo Carmine Gargiulo e cliccare all'interno di Ascolta la diretta. Quindi direi Maurizio che possiamo partire con quello che è il primo pezzo per presentare il nuovo lavoro appunto di Gargiulo, che si intitola Miti e Tabù, e quindi cominciamo già con un grande ritmo con questa canzone che si intitola Hanno fatto il colpo di Stato. Ecco qua, siete all'interno di Blu Time. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Erano in tutto 33. Hanno tolto il presidente, e ci hanno messo il re, e ci hanno messo il re, e ci hanno messo il re. Hanno fatto il colpo di stato nel paese del cucù, hanno fatto il colpo di stato, non se ne poteva più. Sporchi giochi di potere e campagna elettorale, via casa il presidente e i politici a lavorar, via casa il presidente e i politici a lavorar. E il popolo è sceso in piazza con la banda e il gonfalon, c'è chi balla di qua, c'è chi canta di là, viva viva la libertà. Trasformista si sa, si è buttato nel varietà. Guevara, Guevara, Guevara il c'è, andato il presidente, ci hanno messo il re. Viva il re, viva il re, lunga vita il re. Senza un colpo di cannon, hanno fatto il colpo di stato, l'hanno fatto per patrio amor. È finito il Parlamento, sono rimaste le TV, ma i signori giornalisti li ha mandati tutti a Kabul. Si sa, si è buttato nel varietà. Guevara, Guevara, Guevara il c'è, han tolto il presidente, ci hanno messo il re. Guevara, Guevara, Guevara il c'è, han tolto il presidente, ci hanno messo. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Direi un inizio molto rivoluzionario, possiamo dire così. Abbiamo subito ascoltato quello che è il primo pezzo di Miti e Tabù, l'ultimo lavoro di Gerardo Carmine Gargiulo, con questo inno a Che Guevara, ma non solo, il tutto in un misto tra quella che poteva essere la Maramao perché sei morto del trio Lescano di qualche tempo fa e il Manamanà più recente dei Pupazzi di Jim Henson. Diamo il benvenuto a Gerardo Carmine Gargiulo. Buonasera Gerardo. Ciao, buonasera a tutti. E allora, come si sta da quelle parti? Bene? Sta bene, oggi è stato qui a Milano una splendida giornata di sole. Oh, perfetto. Veramente meraviglioso, perché poi c'era un po' di vento, si vedevano le montagne. Qui, quando il cielo è blu, il blu di Lombardia è veramente blu, veramente. Sì, c'è qualcuno che pensa ancora alla Lombardia, alla Milano grigia, e in realtà Milano nasconde qualche emozione positiva. Sì, soprattutto in queste bellissime giornate di sole che ci sta regalando in questo periodo veramente splendido. Oggi è una giornata meravigliosa. So che da voi piove. Sì, da noi sì, da noi in questo piove, momento sì, perlomeno Carmine. Sopra il tetto dei nostri studi, poi non so nel resto del Veneto come stia andando, magari un colpettino all'aggiornamento del meteo, vediamo di darlo più tardi. Allora Gerardo, abbiamo iniziato appunto con questo, hanno fatto il colpo di Stato a metà tra lezione politica e sociale. All'interno di questo album che si intitola Miti e Tabù. Allora, da dove partiamo? Innanzitutto il titolo è molto parli, cioè parti con la copertina con Adamo ed Eva. Già questo è un mito, è un tabù. Ho cercato di partire dalle origini e quindi c'è questo Adamo e questa Eva, tra l'altro i nostri progenitori che sono con delle cuffie in testa, per sì. cui sono anche un po' anche problemi di incomunicabilità, perché con la musica nelle orecchie è difficile parlarsi. Però quello che voglio dire in questa copertina, peraltro che è stata realizzata da un grandissimo Luciano Pallarini, che per qualcuno che se lo ricorda negli anni 80 è quello che è strepitoso, che faceva le copertine della Mina, per esempio. Vi ricordate la Mina con la barba da Leonardo da Vinci? Certo, certo. Assolutamente era Luciano sì. Pallarini. Vi ricordate Mina rapata a zero? Sì. Era Luciano Pallarini e tantissimi altri artisti, a partire dalla Mia Martini. Insomma, un grandissimo per questa bellissima copertina che mi ha regalato. E naturalmente dall'altra parte della copertina troviamo una mia faccia con gli occhiali questa volta, e con un dito che punto proprio nella mela dove c'è scritto Miti e Tabù. Sì, sì, un vestito molto professionale quello che indossi rispetto a quello che non indossano invece i protagonisti dalla parte A della copertina. Scusa, Gerardo, siccome ti sentiamo molto lontano, probabilmente è un viva voce o un qualcosa... Vuoi che lo tolga? Se riesci. Magari riusciamo a sentirci meglio. Eccolo lì, l'ho tolto assolutamente. Oh, benvenuto. Adesso è ottimo. Benvenuto. Adesso sembri quasi qui con noi. Quindi... Bene. Benissimo, poi sì, perché mi rendo conto che tenere sempre la cornetta e noi la cuffia è un po' difficile, perlomeno teniamola finché... No, però ne guadagna l'ascolto, allora facciamo questo sacrificio per tutti coloro che si sono messi in contatto con Radio Veneto. Blu Radio Veneto. Sì, benissimo, mancava il colore che era tipo il cielo di Milano questa sera. Benissimo, allora subito portiamo anche i saluti al gancio di questa serata, ovvero nostro carissimo ascoltatore Gino, l'ascoltautore, che dice: abbraccio tutti voi amici di Blu Radio Veneto, e dà naturalmente il benvenuto in frequenza anche a te, caro Gerardo. Io lo saluto e lo abbraccio con tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. So che sono tanti e che veramente sono felice di poter presentare questo mio nuovo lavoro insieme a voi e a tutti i nostri ascoltatori di Radio Veneto, di Blu Radio Veneto. Benissimo. Ho detto bene? Non preoccuparti, Gerardo, casomai Blu ce lo aggiungiamo noi ogni volta. Ok, allora ascolta, innanzitutto vediamo di capire come sono nate queste canzoni. Innanzitutto questo c'è molta tempra, molto ritmo, per dare quello che è un colpo di stato, un impossibile colpo di stato, come lo reciti tu. Come ti è nata questa canzone, Gerardo? Guarda, mi è nata come mi nascono tutte le canzoni, guardando alla realtà e pensando quello che potrebbe essere. In effetti è da un po' di tempo, io sono stato, di solito diceva Dalla che se non sei un profeta come cantautore non vali nulla, no? Lui scriveva le canzoni ancora prima che succedessero i fatti. Bene, io questa canzone l'ho scritta 3 anni fa e poi finalmente sono riuscito a realizzarla in questo album, e sentivo questa voglia di cambiamento, di voler cambiare le cose. Abbiamo avuto, come voi ben sapete, tanti che ci hanno provato, voglio dire, a cambiare le cose. Pare che non è che ci siano riusciti, perché mi pare che comunque la politica italiana vada avanti sempre come al solito, anche se, ripeto, da più voci e da più anni si sente sempre dire: eccolo, hanno fatto il colpo di Stato. Lo dicevano 2 anni fa, l'hanno detto l'anno scorso, lo stanno dicendo ancora oggi, perché pare che questa sentenza rivoluzionaria abbia, come dire, in qualche modo anche questo portato. Ma comunque non finisce qui, perché domani, dopodomani, fra 3 giorni ancora si dirà: hanno fatto il colpo di Stato. Gerardo, cosa dici? Non può essere un'ispirazione lontana alla Dario Fo e a Renzo Iannacci? Ma guarda, io penso che noi cantautori ci somigliamo tutti, proprio per questa follia, questa pazzia, questa, come diceva Dalla, lo ripeto, dice le cose tu le devi sentire, devi sentirle, se ci sono già, basta solo coglierle al momento giusto. Quindi questa sensazione di questa volontà di cambiare, ripeto, è solo una volontà, perché poi dopo, certo, in effetti le cose, lo sappiamo, nella realtà vanno sempre al solito modo, però bisogna dire che comunque una certa volontà, una certa, come dire, si vuole cambiare, anche se poi non ci si riesce. Quindi è la pazzia, è la voglia di sognare e di vedere le cose che si trasformano e che si cambiano, però almeno diciamolo nelle canzoni, anche se poi nella realtà non avviene mai nulla. Certo, certo. Poi giocare col trio Lescano è una bella cosa, secondo me, divertente, Gerardo, assolutamente. Devo dire di sì, devo dire che questo album, come tu accennavi, è proprio improntato a questo gioco, a questo scherzo, a questi fiati che continuano a suonare sia nella prima canzone, ma poi anche nell'altra canzone, che è veramente tocca l'attualità. Quando c'era Berlusconi in Italia, lì sì, veramente abbiamo esatto, messo un coretto da anni del trio Lescano, veramente una cosa molto divertente che piace tanto e che so che sta funzionando molto bene. Quindi penso di avere colto un po', come dire, questo divertimento che c'è nell'aria di ritornare un po' a cantare queste canzoncine divertenti, insomma. Certo, noi allora dobbiamo dire che Miti e Tabù è un concentrato di 14 canzoni, una più divertente dell'altra, una più scanzonata dell'altra, dove appunto, come diceva Gerardo, c'è sì un trattare per ridere, ma al di sotto di queste canzoni si nasconde una realtà un po' più cruda che comunque si vuole, come dire, esorcizzare cantandola così, no Gerardo? Sì, sì, hai colto proprio nel segno, proprio questa voglia, questo di divertirsi, ma perché la realtà in effetti è cruda ed è anche piuttosto drammatica. Pensiamo al lavoro, pensiamo a tutti i problemi che abbiamo noi dappertutto, in tutta Italia ormai. Prima si diceva che nel sud, da cui io provengo, c'erano sempre problemi di lavoro, eccetera, ma ormai la crisi ci attanaglia tutti, da sud a nord, a est a ovest, per cui sicuramente poi nelle mie canzoni, anche se cerco di usare questi strumenti, fiati, questo modo di cantare molto divertente, molto, molto scanzonato, però poi i temi che tratto sono veramente reali e sono veramente drammatici. Se tu pensi alla canzone che ho dedicato al lavoro, fatica. E anche lì c'è il problema del lavoro precario, del lavoro, certo, che non c'è, e purtroppo anche dei drammi che noi vediamo tutti i giorni. Avremo modo di sentire più canzoni all'interno del tuo CD, Miti e Tabù, quindi ricordiamo i nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando con Gerardo Carmine Gargiulo, è uscito il suo nuovo disco, appunto Miti e Tabù, di cui stiamo parlando. E allora Gerardo, ci meritiamo una pausa ascoltando un altro pezzo, che è un pezzo per noi divertentissimo, e che ci fa un po' rivivere il come ti abbiamo conosciuto ancora qualche tempo fa. Correva l'anno, non sappiamo quale esattamente. Beh, e c'era eravamo negli anni 80. Sì. e c'era una gita sul Po, che noi ci ascoltiamo e poi torniamo qui in diretta. Po. Blue Time. Alle 5 del mattino, tutti quanti allineati, con le mogli e coi bambini anche troppo equipaggiati, e quel vecchio guidatore, come al solito ubriaco, che si inchina alle signore nel suo pullman sgangherato, poi fischiando nella nebbia se ne va. Una gita sul Po, po, po, po, po. Una gita sul Po, oh sì, per scordare la distrarsi anche un po', una gita sul po, po po po, una gita sul po, oh yeah. Non è andare in America, né in Unione Sovietica, costa poco però, po po po, po po po. Sotto un sole artificiale, forse un poco infreddoliti, col battello fluviale se ne vanno divertiti. Ed a pranzo l'assessore, con sua moglie ingioiellata, si esibisce da tenore e ride tutta la brigata. C'è chi ha messo una canzone nel jukebox, una gita sul pop, pop, pop, pop. Una gita sul pop, oh sì, per scordare la fabbrica e passare la domenica e distrarsi anche un po'. Una gita sul pop, pop, pop, pop. Costa poco però, po po po, po po po, po po po, po po po, para pa pa, para pa pa pa, para pa di pa da di pa da da pa da di pa da di pa da da, pa da da di pa da di pa da di pa da da, po po po, po po po, po po po, po po po. Alle 5 della sera, sulla strada del ritorno, per effetto del barbera c'è chi piange, c'è chi dorme, solo ansima il motore nel socchiasso indiavolato. Poi in piazza del comune finalmente si è fermato. Buonanotte, domattina a lavorare. Una gita sul po, una gita sul po, oh sì, per scordare la fabbrica e passare la domenica e distrarsi anche un po', una gita sul po, po, po, po, po. Una gita sul po, oh yeah. Non è andare in America, né l'Unione Sovietica, costa poco però, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Blu Radio Veneto. Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Allora, sembra una canzone nuovissima, in realtà i suoi 33 anni li porta bene, vero Gerardo? Sì, li porta bene, anche perché dalla fisarmonica padana, come hai potuto notare, come hanno potuto notare i nostri cari amici che ci stanno ascoltando, siamo passati al sax, dei sax. Veramente, io dico che questo Po è diventato un po' un Mississippi, nel senso proprio del blues, un po' più blueseggiante. In questo caso Mississippo, ecco qua. Eccolo là. Benissimo. Stiamo parlando con Gerardo Carmine Gargiulo, Miti e Tabù, il suo ultimo lavoro, un brano di qualche tempo fa che è comunque inserito all'interno di questo Miti e Tabù, appunto Una gita sul Po, che ha riscosso un ottimo successo in quel periodo, e tra le cose più belle, e sicuramente ti ha fatto molto onore Gerardo, è che è stata reinterpretata dal quartetto Cetra, che in quel periodo era l'80-82, l'aveva ripreso. Sì, guarda, è stata veramente una bellissima sensazione sentirla cantare, perché loro poi facevano queste bellissime parodie, gag musicali, la scoperta dell'America, sì, e andava in onda. Io una sera stavo guardando questo programma, allora era Antenna 3, che era una televisione che andava molto in Lombardia, stavo guardando e sento questa canzone e dico ma io questa canzone la conosco. Perché loro facevano queste parodie e quindi cambiavano il testo, no? E poi ho detto, ma questa è la mia canzone, oh Gesù. Te la chiedono ancora, Gerardo, quando suoni in giro? Scusa? Te la chiedono ancora quando suoni in giro? Ma certo, ma guarda che la gita sul po po po po, po è il mio cavallo di battaglia. Poi vabbè, ci sono altre canzoni come dire, che hanno parte del mio repertorio, ma questa sicuramente me la chiedono perché effettivamente all'epoca ha avuto un grandissimo successo. Certo. Mi ricordo che siamo andati al Festival Bar, c'era con noi, perché io ero della stessa casa discografica, e prodotto da Sandro Colombini, produttore di Ron, produttore di Dalla, produttore di Bennato, e mi ricordo che c'era Lucio Dalla che continuava a cantare po po po po. Quindi voglio dire, veramente fu un grandissimo successo, e ancora oggi, come dici tu, è attuale, anche se purtroppo si parla di del mondo delle fabbriche, del divertimento della domenica, quando ancora c'erano le fabbriche, quando ancora il lunedì si andava a lavorare. Purtroppo oggi il lavoro, diciamo che è il tema più drammatico, e quindi sicuramente è il problema che bisogna cercare di risolvere qui in Italia, direi in Europa, perché effettivamente questi ragazzi che non trovano lavoro veramente è una cosa triste, e non si vede il futuro dell'Italia. Ecco. Certo, effettivamente in questo periodo abbiamo un bel po' di gatti da pelare, come si dice. Bene, allora noi adesso ti stiamo ascoltando come cantautore, e quindi con questi pezzi di cui tu hai curato sia le musiche sia i testi, ma qualche tempo fa tu, oltre a cantare le tue canzoni, scrivevi anche per altri artisti. Io sono nato veramente come autore. Il cantautore mi ha scoperto Sandro Colombini, ma io sono nato veramente come autore di canzoni, è vero. E quindi ricordiamo anche quelle che sono state le tue preziose collaborazioni, perché tu hai scritto con e per Toto Cutugno, tra le altre cose. Poi sì, ancora... un'ultima canzone che mi ha inciso si chiama Stasera parliamo di donne, che è una canzone molto molto bella. Non perché l'abbia scritta io, ma perché poi lui la interpreta molto bene. Certo, stiamo parlando del novembre del 1990, poi ancora hai scritto anche per gente del tipo Per Julio Iglesias ho scritto una canzone che è stata, adesso sta andando ancora in lingua spagnola, si chiama Sono Io, per Julio Iglesias, che anche questa è una canzone veramente commovente, molto. Poi lui è un grande interprete, per cui a livello internazionale, per cui veramente sono soddisfatto di questa sua performance sulla mia canzone Sono Io. E poi ha scritto anche con Cristiano Malgioglio, quindi l'inossidabile Cristiano Malgioglio. Sì, perché si vede. Peraltro lui mi aveva coinvolto in un progetto, aveva fatto questo, doveva fare questo album, e io avevo una canzone che si chiamava Maledetto Amore, che lui poi ha trasformato in un altro titolo che si chiama Ambiguità, e lo ha inserito proprio in un suo album non recentissimo, però mi ha fatto questo omaggio. Peraltro insieme a lui ho scritto una canzone che si chiama Carta Vincente. Tu non saprai mai chi ha interpretato questa canzone, non lo potrai mai sapere. Nelle nostre note non c'è scritto chi l'ha interpretata, Carmine. Te lo dico, ma non lo dire a nessuno. No, assolutamente. Chiudiamo i microfoni. Allora, sì. Allora, l'ha interpretata Alessandra Mussolini. Bene. Bene, ha fatto successo, quanto pare, e quindi... Beh, ha fatto successo, ma pensa che aveva fatto il Festival di Tokyo con questa canzone, quindi l'avevano mandata via dall'Italia. Sì. Poi ha pensato bene di cambiare attività. Sì. Poi probabilmente la politica era più adatta a lei. Poi è ritornata, quindi è confermato, e spero abbia riportato a casa anche la canzone. Magari un giorno potremo sentirla dalla tua voce, Gerardo. Ma no, non credo di essere adatto a cantare questa canzone. Forse è una canzone più da donna, più da una ragazza. Beh, forse possiamo ripescarla insieme a Cristiano Malgioglio, magari dalla a una di queste nuove interpreti, queste bravissime nuove cantanti che veramente sono molto molto brave a interpretare le canzoni. Benissimo, allora Gerardo, ci meritiamo un'altra pausa ascoltando un altro pezzo dei tuoi, quindi vediamo, potremmo ascoltare Siamo Tutti Mascalzoni, un po' un quadretto che identifica tutti, ma proprio tutti, nessuno escluso, eccolo qua. Thank you. Siamo tutti mascalzoni, tutti ipocriti e buffoni. Siamo tutti ben pensanti, latin lovers e politicanti. Siamo tutti dei briganti, chi sta indietro e chi sta avanti. Siamo tutti, siamo tutti commedianti. Siamo tutti gli egoisti, sciupa femmine e camorristi. Siamo tutti un po' drogati, dai più giovani ai pensionati. Siamo tutti un po' gelosi, fatalisti e sospettosi. Siamo tutti, siamo tutti un mafiosi, un po' mafiosi, un po' mafiosi. E per te che pensi che così non è, quando fai la barba guarda avanti a te. Dentro quello specchio una faccia c'è, non la riconosci, la tua faccia è. Sotto quel sapone dentro quello specchio c'è una faccia, la tua vera faccia. La tua faccia, la tua faccia, la tua faccia, la tua faccia. Faccia d'italiano, faccia di... Siamo tutti allenatori, tutti arbitri e calciatori. Siamo tutti laureati, buona parte disoccupati. Siamo tutti un po' geniali e per nascita buoni cristiani. Siamo tutti, siamo tutti italiani. Siamo tutti italiani, piemontesi e siciliani. Siamo tutti italiani. Nino, quasi fa l'Italia o si muore. Noi non siamo insensibili al grillore che si erge a tutte le parti d'Italia. Roma o morte, obbedisco, diremmo innanzi. E per te che pensi che così non è, quando vai allo stadio guarda avanti a te. Sotto lo striscione una faccia c'è, non la riconosci, la tua faccia è. Siamo tutti evasori, cavalieri commendatori. Siamo tutti milionari, parlatori straordinari. Siamo tutti cicciottelli, per la mamma siamo i più belli. Siamo tutti, siamo tutti grandi fratelli. Siamo tutti fratelli. Uè, ma cosa sono queste cose? Tu spari a me, io sparo a te. Ma che siamo diventati matti? Volevo se bene, abbiamo fatto l'Italia e ora facciamo gli italiani. Meridionali e settentrionali, siamo tutti dei provinciali. Eh sì, siamo tutti provinciali. La Liga Lombarda, la Liga Veneta, la Liga Calabro Pugliese. E gli emigranti di colore allora? Eh sì, siamo tutti mascalzoni. Mascalzoni di qua, mascalzoni di là. Siamo tutti mascalzoni, dall'ultimo dipendente al presidente. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Siamo tutti mascalzoni, era questo il titolo del pezzo che ci siamo ascoltati, a proporcelo Gerardo Carmine Gargiulo dal suo lavoro che si intitola Miti e Tabù. Noi siamo fortunati perché abbiamo Gerardo Carmine Gargiulo proprio con noi a telefono per commentare insieme dei passi importanti di questo CD, per farlo conoscere ai nostri ascoltatori. Allora Gerardo, siamo tutti mascalzoni, è quello che mi faceva morire dal ridere. C'era una frase di Giuseppe Garibaldi, Peppino come lo chiamava forse Nino, che dice: Nino, qua si fa l'Italia o si muore, parlando verso Nino Bixio. Allora Gerardo, anche questi cenni storici importanti. Eh sì, perché abbiamo appena finito di festeggiare i 100 anni dell'Italia, no? Della nostra patria. 150. Vabbè, avevo saltato un 150. Sai perché? sono fissato col 100 perché sto ricordando i 100 anni del lupo dell'Avellino. Ah, per quello, quello è il motivo. E più aggiornato i 100 anni della festa del lupo. È quella è un'altra storia. Quella è un'altra storia. La raccontiamo brevemente, visto che ci siamo. Perché invece i 150 anni dell'Unità d'Italia, che sono stati festeggiati da tutte le parti, voglio dire, no? E io ho voluto in qualche modo ricordare che è vero che abbiamo fatto l'Italia, ma quando facciamo sti italiani? Adesso facciamo gli italiani è un tema sempre ricorrente, ma della serie gli italiani ci sono o ci fanno, ecco, in certe situazioni è proprio così. E, allora, no, la piccola parentesi legata al lupo di Avellino, vogliamo subito dire, allora dovete sapere, Gerardo Carmine Gargiulo ora vive e svolge la sua attività professionale in quel di Milano e provincia, però lui è molto attaccato ancora alla sua squadra del cuore e quindi alle radici, alle mie radici, proprio alle tue radici anche quindi... alla ferrovia Avellino Milano, quella famosa ferrovia, ecco, l'espresso qua. Delle 21, ebbene sì, l'espresso delle 21 che partiva da Avellino e arrivava a Milano, esattamente, e quindi c'è anche il migrante, ebbene sì, e quindi il lupo d'Avellino è la tua squadra del cuore in questo caso. Quest'anno poi siamo in Serie B e quindi finalmente dopo tanti anni finalmente siamo arrivati in Serie B e quest'anno, come dicevo prima, abbiamo festeggiato i 100 anni della squadra dell'Avellino. Io ho presentato il mio nuovo inno che si chiama Di padre in figlio l'Avellino siamo noi e che sta avendo molto successo e che quindi spero che quando verremo anche a Padova a giocare con Padova lo sentiremo allo stadio. Sì, dobbiamo ricordare che tu ne hai scritto uno prima molto famoso. Beh, sì, quello Avellino sento odor di noccioline, sì, quello degli anni 80, quando l'Avellino era in Serie A, non vero, dimentichiamo sì di Avellino si diceva, no? Ebbene sì, la squadra veramente che è stata una sorpresa. Mi ricordo quando allo stadio Partenio di Avellino 4 Milan 1 io ero a fianco di Gianni Rivera e ogni gol faceva un capello bianco. Sì, perché nessuno se l'aspettava, invece è stato un anno determinante quello per l'Avellino e poi anche quest'anno insomma si è comportato proprio bene, da quel che conosco io di calcio, molto poco, però il nome Avellino mi era arrivato. E quindi abbiamo raccontato brevemente di questa tua, diciamo, partecipazione all'attività, diciamo, del team dell'Avellino proprio con questo inno che poi cantano anche i tifosi o si stanno preparando per cantarlo. Sì, spero proprio che l'anno prossimo, quando entrerà la squadra al Partenio o in tutta Italia dove andrà a giocare, canteremo tutti insieme l'Avellino siamo noi, di padre in figlio noi, l'Avellino siamo noi, siamo noi, eccetera eccetera. Ecco, la canzone è molto commovente, molto appassionante. Alcuni tifosi del Padova hanno abbandonato le frequenze di Blu Radio Veneto, vi prego ritornate. Vabbè, un piccolo sfogo, scusate, il cuore, ma io penso che i tifosi quando sentono un altro tifoso si gioiscono perché vedono la passione e l'amore per la propria squadra. È un po' come quando faccio sentire la mia canzone Panettiere, no? Che è la canzone che io ho dedicato a mio papà, che faceva il panettiere. Una notte mi portò nel forno, ero bambino, avevo 10 anni, e mi portò nel forno di notte per dirmi guarda qui come si lavora, per farmi capire che cos'è il lavoro, perché io a scuola non volevo tanto studiare, avevo grilli per la testa. Lui mi dice guarda qui il lavoro che cos'è, e io in quella notte ho maturato veramente, ho capito tante cose, e quindi per me cantare Panettiere e sentire che altri si commuovono ad ascoltare questa canzone è un po' appunto come l'amore e la passione per la squadra del proprio cuore, così come l'amore e la passione per il proprio papà. Tutti, è un sentimento grande che abbiamo tutti. Certo, stiamo parlando di quella che è la canzone che andremo ad ascoltare adesso, appunto Panettiere. In mezzo a tutte quelle che sono le canzoni, come si diceva prima, scanzonate, diciamo, questa invece è molto molto intima, si sente che c'è una vera, diciamo, passione in quello che canti in questa canzone. Allora l'ascoltiamo, l'ascoltiamo insieme ai nostri ascoltatori e poi torniamo qui in diretta per parlare ancora di miti e tabù. Mio padre panettiere, mi ricordo le sue vene, gli occhi grandi verdi come il mare, mani bianche di farina, uno spago e pantaloni, la cintura è per noi mascalzoni. Lui al tramonto andava via con la giacca sulle spalle, solo un fischio gli teneva compagnia. Notte lunga senza stelle, sotto un forno di fascine, pane caldo, ci vediamo domattina. Caro papà, era tanti anni fa, grazie papà per la tua onestà, onestà. Ed il sabato a casa mia, era festa nazionale, questa sera lui non va a lavorare, porterà le sfogliatelle, tornerà forse ubriaco, un 3-7 d'un bicchiere, il suo svago. E si cresceva così bene nella vecchia casa insieme, ma bisogna andare lontano per studiare, e io che mi vergognavo quando col vestito buono a trovarmi lui veniva con un dono. Caro papà, era tanti anni fa, addio papà. Giocando a carte dentro a un bar, lo rivedo come allora, ho il suo sangue nelle vene, sono figlio di mio padre, panettiere. Caro papà, era tanti anni fa, grazie papà per la tua onestà. Ciao papà, grazie papà. Mondo che se ne va, se ne va, se ne va. Blue Time Live, Blue Time. Live. Sempre all'interno di Blue Time Live qui da Blue Radio Veneto, assieme a Flavio Bilato, Maurizio Calzavara, con noi c'è Gerardo Carmine Gargiulo che sta commentando insieme a noi alcune fasi di questo ascolto del del CD del suo ultimo lavoro, che si intitola Miti e Tabù, dal quale abbiamo preso questa canzone dedicata al papà, appunto, di Gerardo Carmine Gargiulo, panettiere. Quindi delle parole forti in questo, in questa canzone, di un lavoro che è sempre più, come dire, forse più sconosciuto, invece di conoscerlo di più, a volte anche la figura di, del panettiere, piuttosto anche di altri lavori manuali, vengono sempre più, come dire, levati dalla parte, diciamo, che ognuno di noi dovrebbe conoscere e amare. Gerardo, ci sei? Sì, ci sono, ci sono. Che bella espressione che hai usato. In effetti io ho sempre visto questo lavoro come un grande mistero, questa trasformazione che poi è la cosa più antica di questo mondo, no? Sì. Il pane è la cosa più bella e più preziosa che abbiamo, questa trasformazione di, della farina che diventa pane, diventa il nostro cibo quotidiano, no? Io infatti amo profondamente il pane, perché mi ricorda casa mia, mi ricordo mio padre con le mani bianche di farina, mi ricorda la mia infanzia. Mi ricorda questa notte, come ti dicevo prima, che ho passato in questo forno. E hai ragione, tanti mestieri che adesso si perdono, e tanti mestieri e tante cose che, come dire, in qualche modo invece secondo me vanno rivalutate, vanno riviste, insomma, vanno apprezzate, amate questi lavori manuali, dal falegname al panettiere a tutti i lavori manuali. E l'hai colorata, sì, con una melodia, proprio melodia italiana, Gerardo, questo pezzo. Sì. Guarda, penso veramente di avere centrato questa volta una canzone con una melodia veramente, ma secondo me se la interpretasse anche un cantante americano di quelli bravi, adesso dico quelli I don't love the wonder baby, I don't love the wonder baby, Kroner, I don't dice? Love me. Cioè, mi sembra una canzone internazionale. Frank Sinatra, dai, facciamo così. Sì, un po' l'anca. Un po' l'anca, possiamo, ecco. Bravo. Sì. Ottimo. Benissimo. Allora, abbiamo parlato del passato. Allora, com'era il Gerardo Carmine Gargiulo con la barba qualche tempo fa? Con qualche anno in meno, qualche pelo in più. Sì. Beh, però ancora ho conservato i baffi, un po' di barbetta ce l'ho ancora, devo dire. Però erano gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, quindi erano gli anni in cui la barba era d'obbligo. I cantautori da Guccini a De Gregori a Venditti, insomma, se il cantautore Dalla, se non avevano la barba, che cantautori erano? Poi quindi eravamo la barba, ovviamente schierati di sinistra. Certo, insomma. Quindi la barba era un sinonimo di impegno in questo caso. Sì, direi di sì, anche se poi, non so, personaggi come Bennato non avevano la barba, ma erano impegnati lo stesso, non ci dimentichiamo. Però diciamo che era un simbolo, pare che adesso sia tornata molto di moda, forse è una barba un po' più curata, noi invece avevamo la barba così, un po' più barbara, diciamo. Sì, esatto. In questo caso. Allora, adesso, Gerardo, un'altra parentesi legata a quella che è la tua regione di provenienza, con una canzone che si intitola Irpinia. Allora, ovvio, ti chiediamo il perché hai dedicato questa canzone all'Irpinia, con che spirito L'hai scritta, e com'è stata l'accoglienza del popolo irpino nel sentire questa canzone, che ha un filo anche molto, molto commovente in certe situazioni. Sì, hai detto bene, guarda, io questa canzone gli ho fatto il filo, ero a 10 anni che volevo scrivere una canzone, perché dopo la canzone Avellino che avevo dedicato alla mia terra, alla mia città, alla mia regione, al capoluogo di provincia, avevo voglia di dedicare qualcosa che, però non devo dire che ho faticato per far venire fuori, io direi veramente questo pezzo di cuore, proprio questa voglia di voler far vedere con gli occhi che cos'è l'Irpinia, no? Sì, perché poi si va sempre sull'ovvio o magari sul già cantato, no? Si può dire, in realtà tu hai fatto qualcosa di più in questa canzone. Sì, direi che ho cercato di dare il meglio di me, ovviamente abbiamo dei limiti tutti, però diciamo che quando c'è passione, c'è cuore, c'è la voglia di amare, di soffrire e di dire tutto l'amore per la propria terra. Ecco, io anche in questo caso, così come nel panettiere ognuno può vedere il proprio papà, io penso che chi ama la propria terra, che sia il Veneto, che sia la Lombardia, che sia la Sicilia, che sia il Piemonte, sentendo Irpinia possa trovare questo amore per la propria terra. E questa, secondo me, se si riesce a trasmettere, a far passare, a far, come dire, arrivare questo messaggio di amore per le proprie radici, per la propria terra, penso che sia veramente una grande vittoria. Al di là poi se il pezzo abbia successo o non abbia successo, è già un successo riuscire a commuovere le persone, a far muovere il cuore. Per me è già un successo. E devo dire comunque che in Irpinia questa canzone qui veramente è diventato ormai proprio l'inno della nostra terra. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo, lo proponiamo anche ai nostri ascoltatori di Blu Radio Veneto. Questa è Irpinia, tratto dall'album Miti e Tabù. Lui è Gerardo Carmine Gargiulo. Il mio dolore dei vent'anni miei, boschi di castagne e faggi, vigne alle colline, che stupendi paesaggi come cartoline. Irpinia, io ti lascio, vado via. Irpinia, questa terra ballerina. Irpinia, cielo azzurro e Lombardia. Irpinia, morirò di nostalgia. Ho attraversato il mondo intero per poi fermarmi qua. Ero come uno straniero in questa città. Lunghi fiumi e laghi immensi, spaziosi come il mare. E servendo la giustizia ho guadagnato il pane. Irpinia, io ti lascio, vado via. Irpinia, questa terra ballerina. Irpinia, cielo azzurro in Lombardia. Irpinia, morirò di nostalgia. Passato, quanto ne passerà prima che possa tornare, ritornare là, là tra le montagne verdi, conventi e masserie, tra gli antichi santuari, canti e litanie. Irpinia, per chi ancora fede un futuro ci sarà, come un lupo nella neve con i denti lotterà. Irpinia, Irpinia. Irpinia, resti sempre casa mia. Terra mia, Irpinia, la politica assassina. Irpinia, sagre feste e l'allegria. Sagre feste e l'allegria. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Abbiamo ascoltato questa canzone dedica all'amatissima Erpigna. Lui è Gerardo Carmine Gargiulo, che noi abbiamo qui in diretta ai nostri studi via telefono per commentare quest'album. Si intitola Miti e Tabù. E allora, Gerardo, abbiamo sentito verso la fine di questa canzone che c'era tutt'altra atmosfera, quindi forse una presa diretta di un qualcosa che volevi far ascoltare alla gente che non conosce l'Irpinia. Sì, ho voluto proprio passare questo amore per la propria terra. Poi sul finale forse si è riuscito a sentire, faccio anche un po' di polemiche perché ho parlato della politica assassina, perché poi l'Irpinia tutto sommato ha avuto tutta una serie di problemi ancora oggi, di problemi perché insomma la politica non è che ha aiutato molto la nostra, anche per il post terremoto e quant'altro. Certo. Comunque, sono passati quanti anni? 30 anni? Tieni conto che nell'80 praticamente. Sì, negli anni 83, 80. Se non, adesso non ricordo, ma forse l'anno era proprio l'83, novembre dell'83. L'Avellino comunque, l'Avellino e tutta l'Irpinia dopo il dramma ha cercato di risorgere. Naturalmente i problemi ci sono, d'altronde siamo nel sud e siamo in una zona bellissima ancora tutta da scoprire, dove c'è un vino eccezionale che in tutto il mondo è amato, però ci sono ancora problemi molto seri. Per esempio hanno chiuso la stazione di Avellino, esatto. E con tutto quello che non consegue a livello di infrastrutture e quant'altro. Io alla fine faccio un riferimento anche al nostro santuario importantissimo, che è la Madonna di Montevergine. Evoco un viaggio che avevo fatto con mia mamma, si faceva allora il viaggio a piedi per andare sulla montagna, ed è una cosa indimenticabile, ed evoco appunto questa canzone di Il canto di Montevergine, che è qualcosa che rimane nel cuore, insomma, ecco. La nostra Madonna di Montevergine. Allora ricordiamo che Miti e Tabù è un concentrato di 14 canzoni, tutte molto divertenti, alcune che fanno veramente pensare. E allora, innanzitutto ancora complimenti per la copertina, soprattutto perché all'interno, Gerardo, hai voluto mettere anche i testi per poter seguire e cantare assieme a te le canzoni, seguendo appunto il CD. Ma ci devi togliere anche una curiosità, le collaboratrici che hai in copertina sono dell'Avellino? No, in realtà sono, ma una mi sembra, se non sbaglio, sia veneta. La ragazza è veneta, sì. E un'altra ragazza non l'abbiamo mai vista noi, però lo so, vabbè, ma devi segnalarcela. No, ma lavorano qui a Milano, quindi sono capito, nell'ambito delle modelle e quant'altro. E poi c'è un'altra ragazza, se non sbaglio, che dovrebbe, non so se viene dalla Val d'Aosta, non mi ricordo, comunque sempre qui del nord, del sud non ne abbiamo, basto io. E tra le altre cose, nel mezzo di queste due ragazze sorridenti, ci sei tu, però mascherato, una maschera di un personaggio, di una persona che conosciamo molto bene. Sì, di cui si parla sempre, ma adesso in questi giorni, anzi ieri, se ne è parlato in modo assolutamente, ormai è sulla bocca di tutti. Certo. E questa canzone che io ho scritto e che ho dedicato a questo personaggio, come Napoleone dalle stelle alle stalle, ovvero dagli altari alla polvere, che è il nostro ex presidente, che comunque tiene duro, pare che voglia tenere duro, questa canzone ho voluto dedicarla a lui, si chiama, tu lo sai, no? Sì. Che io questa canzone faccio fatica sempre non solo a presentarla, certo, ma anche a cantarla. Tu devi sapere, brevissimamente, che ad Avellino, quando abbiamo fatto la festa del lupo l'anno scorso, che ho cominciato a presentare le canzoni, volevo fare questa canzone, però questa la presentatrice era niente di meno che la Patrizia D'Addario, che è quella che ha avuto problemi a livello di magistratura, insomma. Sì, sì, sì, e, sì, e gli organizzatori mi hanno detto: ma tu non vorrai mica cantare la canzone quando c'era Berlusconi in Italia, questa sera? E io ho detto: perché no? Dice, no, no, questo non la puoi cantare, perché altrimenti qui arriva la polizia, la D'Addario si riva. E invece io quella sera l'ho cantata. E come si è svolto? Ho fatto ballare anche lei, ho fatto ballare, abbiamo ballato insieme. Sì, sì, perché così ballando poi non capiva il testo. Sì, perché ballava e si dimenticava, non sì, lei un po' stordita, diciamo. Bene, sì, ma poi mi ha anche chiesto di: ma non hai una canzone per me? Ho detto: sì, guarda, possiamo cantare questa insieme. Quando c'era Berlusconi in Italia. Benissimo. Lei, ragazzi, se sai, cantavano così. Ma poi mi è successo che quando ho presentato questo CD Miti e Tabù alla Mondadori, mi hanno detto: ma tu non vorrai mica cantare quando c'era Berlusconi in Italia qui in casa sua alla Mondadori in corso Vittorio Emanuele a Milano, ma sei matto? E invece tu cosa hai fatto? Quando c'era Berlusconi. E questa sera, prima di iniziare, voi che cosa mi avete detto? Sì, cerchiamo di non far sentire questa canzone. Invece tu hai detto. E io cosa ho detto? e quando c'era e torna, soprattutto tra virgolette. Chi lo sa? Perché, sì, come dire, la fenice insegna, no? Sì, va sì. E viene. Benissimo. Allora ce la vogliamo, me la passate questa canzone o anche voi, è tabù anche per voi? No, a questa parte diventa un mito in questo caso invece di un tabù. Allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo per la parte finale, quindi i saluti con Gerardo Carmine Gargiulo. Eccola qua. Berlusconi in Italia, le ragazze sai cantavano così, si viveva di sondaggi, le first lady erano ostaggi del suo humor, del suo fascino latin. Quando c'era Berlusconi in Italia, i ministri sai cadevano così, grandi affari stava sempre su. Quando c'era Berlusconi, quando c'era Berlusconi, quando c'era Berlusconi in Italia, imperava Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. È un'atmosfera veramente da mille luci, si può dire, sì. da grande spolvero in questa... Un po' di rock and roll, fa bene alla salute, di, Gerardo! Sì, sì, assolutamente, assolutamente. E noi... Voi non avete visto il video, perché io ballo con queste due bellissime ragazze che mi fanno da cornice. Sì, vogliamo segnalare il video per i nostri ascoltatori, quindi come facciamo per andarcelo a vedere da curiosoni? È sufficiente digitare Gerardo Carmine Gargiulo Berlusconi in Italia. Lì, quando c'era Berlusconi su YouTube, so che ha già fatto, è arrivato circa 10.000 passaggi, quindi vuol dire che comincia a funzionare, comincia a piacere. Penso che in questi giorni ormai diventerà un tormentone, sì, vista l'attualità. Ci sono stati circa 8.600 visioni di questo, di questo filmato, e dopo questa serata naturalmente è destinato a duplicare questo numero, veramente eccezionale, con la caricatura di appunto di Berlusconi con queste diavolette, si può dire così, con il tridente, con il diavolo lo faccio io. Ah, benissimo. Ok, allora Gerardo, è stato un vero piacere averti qui in questa serata. Una promessa te la strappiamo: la prossima volta vieni qua in carne ed ossa, perché così avremo più modo di parlare ancora più approfonditamente di quella che è la tua musica, magari ascoltando qualcosa in più anche dal vivo delle tue proposte, così per andare certo, in cerca di quello che è lo storico della tua carriera musicale. Allora ci salutiamo con un altro pezzo di cui ti chiedo di fare un breve cappello, quindi fatica, quindi legata al mondo del lavoro in questo caso, Gerardo. Ci tocca, come dicevamo prima, è un album divertente, scanzonato, però che tocca pure i problemi seri. E questa canzone effettivamente tocca proprio il punto più nevralgico della nostra attualità, che è il lavoro. E quindi ho voluto dedicare proprio questa canzone al lavoro, ai lavoratori, a tutti coloro che hanno problemi di lavoro, e quindi a noi... Questa canzone la dedichiamo a loro. Non ci dimentichiamo che nell'album c'è anche una bellissima canzone d'amore, perché altrimenti qualcuno può pensare che è tutta una canzone piena di impegno, piena di divertente, ma impegnata allo stesso tempo. No, c'è anche qualche canzone, da parte panettiere c'è una canzone che si intitola Sant'Andrea, amore chi sei. Bravissimo, bravissimo. E questa è una canzone che io ho dedicato, è un amore veramente sconfinato, voluto dedicare a quello che è l'amore romantico, l'amore eterno. E quindi anche le ragazze, che so che amano questi temi, che si appassionano appunto, possono trovare in questa canzone un momento veramente da sogno, diciamo così. Benissimo, allora grazie Gerardo per essere stato con noi, per averci A voi per avermi ospitato in questa bellissima radio. È veramente quello che voi mi avete chiesto, di tornare da voi e cantare dal vivo, è una promessa che voglio mantenere e che spero che si possa realizzare quanto prima, perché mi rendo conto che appunto per telefono è sempre bello sentirsi eccetera, però toccarsi, guardarsi negli occhi e suonare dal vivo è un'altra cosa. Assolutamente. Benissimo, allora Gerardo, grazie mille, noi ci lasciamo con quest'ultimo pezzo da Miti e Tabù, ci ascoltiamo quindi fatica. Grazie, sì. Gerardo, grazie a voi, un abbraccio. Ciao, Gerardo, a tutti quelli che ci stanno sentendo, grazie ragazzi. Benissimo. E a tutti anche gli irpini che mi stanno sentendo, a presto. Benissimo, ciao. Grazie mille ancora Gerardo. Allora, ciao. Gerardo, ciao. Carmine Gargiulo, Miti e Tabù, e allora ci ascoltiamo quest'ultimo pezzo e poi voltiamo pagina, eccolo qua. Mister Marchion, come presidente tutte le sue donne. Come Mister Marchion, come presidente tutte le sue donne. vina e scambres, una sciacquata e caffè espress. In oraria già arriva, quando è long sta cadè, da mattina fino a sera, manco tempo respira. Ma che vita mai è che sta qua? Non capisce sta America. Fatica, fatica. Noi avimma sulla fatica, fatica, fatica. Firma casi o magna. Ho studiato da primario, da 10 anni so precario. Non mi posso sistemare. Mentre sto governo che fa? Corre a pressa sta America. Fatica, fatica. Fatica, fatica, fatica. Pubblica fondata sul lavoro, lo cerco notte e giorno, però io non lo trovo. Il lavoro è un diritto e non è carità. L'articolo 40 della Costituzione dice che lo sciopero non è una violazione.